Cordiale buonasera a tutti quanti da parte della biblioteca provinciale Claudia Lussa di Bolzano, che da qualche mese organizza le iniziative di promozione alla lettura girando un po' per la città, e spesso e volentieri siamo ospiti del centro Trevi, che ringrazio, e una bellissima sala accogliente, ormai siamo quasi di casa. Questo perché siamo in attesa del polo bibliotecario, quindi nella nostra piccola sede in via Vendola 5 siamo un po' stretti. Vi invito però a visitare la nostra biblioteca e a guardare, così a conoscere i servizi che eroghiamo. Questa sera abbiamo preparato una vetrina con i libri scritti da Anna Maria della Roveneri, che è ospite e che condurrà la serata, e anche altri autori che hanno pubblicato presso la casa editrice Alfabeta, che è rappresentata qui da Toni Pezzelli. Abbiamo il piacere questa sera di avere con noi Ferrarese, e mi devo guardare anche nome, Lorenzo, un collaboratore che si chiama con lo stesso nome, ecco, Lorenzo, che già conosciamo perché era frequente la nostra biblioteca, e siamo contenti di ritrovarlo nella veste di autore di un bellissimo libro, La Gigantessa, Frammenti di una vita straordinaria, che è comunque una parte della storia locale interessante che va riscoperta, va portata così nelle case, e ci ha incuriosito tantissimo con questa scelta, questo tema particolare. Vi ringrazio di essere i nostri ospiti, ringrazio tutti voi che partecipate alle nostre iniziative. Vi ricordo che ritorneremo qui la prossima settimana con un nuovo romanzo, questa volta sarà con Giacomo Sartori di Trento. Quindi vi invito a iscrivervi alla biblioteca, a visitarci, perché siamo ricchi di idee, come dice qualcuno, e soprattutto di servizi. Grazie. Tanto io parlo forte, sono abituata a insegnare. Ecco. Allora, buonasera prima di tutto, e ho veramente l'onore, devo dire la verità, di non essere, mi dispiace che tu mi abbia nominata lì, io non c'entro, io sono qui per fare il balletto, per presentare un illustre collega, un Lorenzo Ferrarese, con questo bellissimo libro. Devo dire la verità, e ripeto quello che ha detto anche Valeria Trevisan, che è veramente un bellissimo libro, perché va in fondo a scavare in una parte, io adesso quello sento, vi dico quello che ho sentito io, una parte anche di tutte le cose che a me interessano in maniera particolare. Prima di tutto va a scavare in un discorso che è mito, leggenda, quello di questi personaggi stradanti, eccetera. Sono le leggende dei giganti e dei nani, naturalmente, anche, sono moltissime, ma in questo caso non è di questo che si sta parlando. Qui si parla di realtà, non di mito, non di storie, non di leggende, si parla di realtà. Una realtà particolarissima, una realtà che alla fine dell'Ottocento, direi ancora del Settecento, alla fine del Settecento e tutto l'Ottocento, è diventata importantissima per l'Europa. Questi personaggi diversi, questi diversi in maniera abnorme, sia per troppo grandi, troppo piccoli, mostruosi, eccetera, eccetera, perché sono diventati proprio come articoli di moda, tanto che venivano portati, e qui anche si racconterà questa storia, venivano portati nelle fiere, venivano portati nelle grandi esposizioni mondiali, venivano portati in giro, proprio in giro, nel vero senso, per l'Europa. Ma qui una piccola osservazione così personalissima. Io ho incontrato il primo gigante uomo, in verità, il primo gigante della mia storia, cioè il primo gigante vero, è appunto il Bartolomeo Bon, o Bartlamei, come dicevano una volta, che è questo gigante praticamente del 1560, che era addirittura il, come si può dire, il il balletto, dico un'altra volta la stessa parola, comunque colui che doveva custodire in qualche modo il figlio di Ferdinando II e lo accompagnava ai tornei. E questo era un gigante di 2,70 m, di cui a Castello Ambras, e lì l'ho incontrato, non l'ho incontrato in verità, ma va bene che posso incontrare anche gente che c'era qualche secolo fa, comunque non importa, con la fantasia naturalmente, ho incontrato questo gigante vestito, cioè un pupazzo di legno vestito con una grande armatura. E qui mi è venuto poi in mente subito l'altro gigante, questo era di Riva, pensate, no, il Bartolomeo Bon, sì, di Riva del Garda proprio. Mi è venuto subito in mente un altro dei giganti importanti, questa volta del 1700, che è il famoso Popo di Bezzecca, cioè di cui avete forse sentito anche parlare, questo Popo di Bezzecca, Popo, chiamatelo Popo, era anche quello un gigante di 2,70 m, anche quello, dico 70, insomma, poi non si sa, che comunque anche quello lo chiamavano il turco e lo vestivano da turco, poveretto. Ma questa storia di mettere in mostra questi personaggi stragrandi vestiti in costume si riferisce anche in qualche modo anche alla nostra, e qui arrivo proprio nel centro del discorso, alla nostra carissima e qui in questo senso benissimo descritta gigantessa della Valridanna. Due parole e poi ti faccio alcune domande. Questa gigantessa della Valridanna, Marill Fastnauna, donna estremamente interessante che ha colpito la fantasia di Lorenzo Ferrarese in qualche modo. Lo ha colpito, lui descrive in un'intervista bellissima fatta da Paolo Mazzucato, che ho sentito, veramente molto molto bella, come sempre fa Paolo Mazzucato, e ho piacere di nominarlo. Ecco, la descrive con l'affetto e la vicinanza di una persona che, non dico quasi l'ha conosciuta, ma che comunque è riuscito ad entrare nei meandri di questa vita dolorosa, di questa vita interessante, ma anche estremamente dolorosa, di questa donna. La gigantessa della Valridanna nasce nel febbraio del 79 e muore abbastanza giovane, il 14 del 12 1917. E qui, in questi frammenti di una vita straordinaria, c'è proprio, e questo, per questo mi piace in maniera particolare questo libro, questo avvicinarsi alla diversità con un'estrema sensibilità, con gentilezza, perché sicuramente la vita di questa donna abnorme sotto tutti gli aspetti deve essere stata, come lo è stata probabilmente per tutti gli altri anche di cui ho parlato prima, da un lato estremamente importante, estremamente così pubblica, ma comunque estremamente dolorosa. Malinconia, nostalgia, probabilmente sono i due sentimenti che traspaiono nella maggior parte di questo libro. Ecco, io adesso mi permetto di farti subito una domanda, che è questa: come hai incontrato, nel senso letterario della parola, questa gigantessa? Se funziona, sì. Qui devo dare atto di aver scoperto questa gigantessa tramite un mio conoscente qualche anno fa, che aveva intenzione di fare un breve documentario, diciamo così, su questa persona. Mi aveva chiesto di scrivere i testi. Allora ho approfondito un po' l'argomento e ho scritto questi testi. Poi questa cosa qui amatoriale non si è più realizzata, non si è fatta, però io intanto mi ero letteralmente innamorato di Marill. Perché quello che scrivo anche nella breve introduzione, cioè il fatto di avere le fotografie di Marill che mi giravano sulla scrivania, è vero. Cioè avevo queste immagini di questa donna con questo sorriso dolcissimo, mite, che quasi stonava con questo corpo abnorme, ma stonava solo perché noi siamo pieni di pregiudizi, diciamo, abbiamo i nostri miti fisici per cui una persona così è brutta per forza, è sgraziata, così. E questo sorriso contrastava nettamente con questa immagine, no? E mano a mano mi è venuta voglia di raccontare. non di farne la biografia, perché io non sono uno storico, eventualmente racconto storie, ma non sono uno storico, per cui questo libro non va preso come un libro di storia, mi raccomando, perché è buona parte frutto di fantasia, non di realtà. Piuttosto una ricostruzione molto minuziosa piuttosto che fantasia, proprio una ricostruzione molto, molto, molto sentita, scusa la mente. Sì, sì. Ecco, e allora così ho deciso di produrre questo libretto, no? E poi mi andava appunto anche di affrontare svariati argomenti. Quello è un periodo storico, qui parlo di storia invece, che a me interessa molto, questo periodo tra la fine dell'Ottocento e lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, una delle più importanti cesure tra un prima e un dopo che ci sia mai state nella storia dell'uomo. E lei poteva rappresentare anche questo aspetto, la fine di un certo mondo che sarebbe completamente cambiato dopo la Prima Guerra Mondiale. Un mondo che si era esaltato nelle nuove scoperte, nelle nuove invenzioni che si succedevano una dietro l'altra nella seconda metà dell'Ottocento, e un'ideologia, anche una filosofia che faceva vedere tutto bello, tutto un futuro per l'umanità roseo e felice, ricco, che la Prima Guerra Mondiale ha stroncato completamente, no? E lei ha attraversato questo periodo in questa sua maniera molto, molto dolce, molto serena, malinconica certamente, perché non ha avuto una vita facile, però in ogni caso secondo me lei era soddisfatta della sua vita e di quello che aveva fatto, ecco. Io spero di sì, io temo che avesse avuto anche grandissimi dolori nella sua stessa vita. Comunque sicuramente quello che hai detto è proprio perfetto, fra il mostrare, che è lo spirito di quest'epoca, il mostrare in tutti i sensi, e qui sono fenomeni da baraccone, appunto più mostrati di così, mostrare e l'essere. E qui nel tuo libro io proprio questo ho trovato, questa continuo richiamarsi al mostrare, cioè ai successi che lei ha avuto naturalmente in giro per il mondo e l'essere, ma non solo, c'è anche in fondo, e qui parli di storia e ripeto il discorso della storia, c'è proprio la storia delle nostre valli anche in un certo qual modo, sì. E questo mi sembrava estremamente interessante, a parte la Valle d'Anda, la storia della miniera, le difficoltà della miniera eccetera eccetera, la storia di una vita contadina sua arrampicata in cima, veramente in cima ad una montagna, con difficoltà enormi di sopravvivenza, ecco, e questo proprio questo sgranarsi dei giorni dopo giorni con questo grande senso di responsabilità verso gli altri. Difatti lei in definitiva offre la sua vita, la sua presenza, il suo essere proprio per aiutare la famiglia, è questo che in fondo la muove insieme alla sorella Rosa, ma non importa comunque, ma poi anche tutte queste piccole osservazioni sulla vita contadina. E comincia il primo pezzo, il primo capitolo di questo libro, è straordinario perché è proprio dove senti questo lei è tornata a casa malata, molto malata, anche perché con questa sua grandissima mole in definitiva, stare sempre in piedi. E questa è una bella osservazione dell'impiedi, cioè presentarsi in piedi, non puoi presentarti seduti, noi siamo seduti, ma generalmente in questi mostri, in questi grandi baracconi erano, nella loro prestanza erano in piedi, e lei che soffriva di ulcere terribili alle gambe, questo è storicamente detto, soffriva sicuramente moltissimo di questo stare in piedi, ma poi proprio tutto il fatto anche della prima parte della sua vita pubblica, non della sua vita di bambina prima e di ragazzina poi, con tutti i dolori, la disperazione di essere diversa, la sensazione dell'essere diversa, l'essere giudicata, eccetera. Anche questo pezzettino che racconti, dove lei va praticamente a fare la serva diversa, sì, di una signora nella grande città, Berlino in questo caso, ma comunque va a fare la serva diversa, appunto, cioè avere questo pezzo da baraccone anche in casa per poter mostrare come uno dei grandi quadri o dei grandi ninnoli o delle grandi cose, di mostrare di avere un personaggio diverso ancora. Ecco, tutti questi piccoli pezzettini di discorso per me sono veramente la bellezza di questo libro. E poi la ricerca, come tu hai fatto, del titolo, perché lei dice, il titolo dice Frammenti di una vita straordinaria. Questo non poter, per questo non è una biografia naturalmente, non voler descrivere Maril se non come le sensazioni del momento, tutte, compreso la difficoltà, la nostalgia, le paure del viaggio e compreso l'amore in definitiva e anche la rinuncia a qualsiasi cosa, compresa questa. Esatto, diciamo che ho scelto proprio volontariamente di raccontare una storia a frammenti. Qualunque biografia, per non parlare delle autobiografie, è sempre una ricostruzione a posteriori e spesso volentieri un po' adattata delle vite proprie o altrui. Questo non mi interessava, perché avrebbe voluto dire una eccessiva presenza mia, dell'autore, in questa vita, e non era quello che mi interessava, no? Tutte le vite, secondo me, sono frammenti, anche le nostre, che poi vengono rimesse in unità, come ho detto prima, a posteriori, cercando anche un filo conduttore che però prima non è chiaro, no? E appunto può essere anche un po' manovrato, un po' manomesso. Cioè, non c'è nessuno come l'essere umano capace di trovare autogiustificazioni per tutte le scelte che ha fatto nella vita, no? Per cui diciamo che l'idea del frammento deriva proprio da questo, no? Cercare di focalizzare dei momenti abbastanza precisi, storicamente anche veri, no? Per mettere in evidenza un particolare sentimento, una particolare sensazione, un particolare dolore, ma anche una particolare gioia. Perché vorrei sottolineare un attimo questo fatto. Cioè, Maride, io non l'ho mai sentita come una persona triste. Una persona che ha sofferto, di sicuro, sia fisicamente sia anche moralmente, ma che però ha sempre trovato una giustificazione ai suoi dolori, un senso più che altro. In questo aiutata anche, lo dico laicamente, aiutata anche da una profonda religiosità contadina, ma molto radicata e molto sincera, che l'ha aiutata spesso e volentieri a superare momenti brutti, momenti faticosi, momenti anche terribili probabilmente, no? E è qui che sta il nocciolo della questione, cioè questa capacità che noi dovremmo acquisire, che noi dovremmo imparare, di affrontare i casi della vita, che possono essere belli, brutti, ognuno ha la sua storia, cercando però in ogni caso di tirare fuori il meglio che si può tirare fuori dalle situazioni in cui il destino, la vita, quello che è, ci ha inserito, ci ha fatto precipitare, no? E qui io vedo la positività del personaggio Marie. no? Pur in una vita che nessuno di noi sicuramente vorrebbe fare o avrebbe voluto fare, no, decisamente. A me era piaciuto anche e soprattutto, sempre tornando all'epoca, il discorso del mostrare, questo muoversi del tutto il racconto, di tutto il libro in quanto tale, come se fosse passato attraverso un caleidoscopio di memoria, dove lo scopo è la memoria e ci sono questi flash sulla memoria. Ecco, a me è sembrato un'intuizione letteraria estremamente positiva, estremamente giusta e anche molto, molto, come dicevo prima, molto innestata nell'epoca. Proprio, naturalmente è chiaro che questo periodo di questi personaggi, di questi fenomeni da baraccone, sia giganti che nani, che altri personaggi ancora, le sorelle siamesi, eccetera, ce ne sono nel periodo come un uccello, non finiscono più, veri o finti, o veri del tutto, o veri a tre quarti, sì, insomma, dipende dalla ecco, la donna cannone, ecco, o l'orso, con questo me lo ricordo anch'io purtroppo, io l'ho visto l'orso, sì. Me lo ricordo ancora a Cavalese, quando io ero piccolissima, ma veramente piccolissima, che c'era venuto un circo, non sta dirmi, io non lo so, perché non lo so e non ho più nessuno cui posso chiedere, perché sono troppo vecchia per poter chiedere a qualcuno. Ecco che c'era questo orso che ballava con la museruola, me lo ricordo, questa povera bestia spelacchiata che ballava in piazza, però comunque. Ma comunque dicevo, tutto questo periodo finisce perché la meraviglia, il mostrare il miracolo, già qui comincia, viene preso dalla fotografia. Sì. Naturalmente la fotografia prende il posto su queste cose, non c'è più bisogno di vedere nei baracconi questi personaggi, ma invece si vedono le fotografie che credo adesso tu vorrai mostrare, che sono una più bella dell'altra, raccolte e sulla sua scrivania. Esatto, ecco. Soprattutto questa, casualmente, soprattutto questa fotografia che io amo tantissimo. Mm-hmm. Maril vestita da lavoro, no? Con la mamma. Mamma che è una, cioè sembra addirittura impossibile che, che quella donnina abbia partorito una tale massa, no? Mamma che è un personaggio secondo me eccezionale, lei ha sempre amato tantissimo questa figlia, al punto, ovviamente casuale, però simbolicamente per me è importante, la madre è morta 2 settimane dopo Marit, no? E l'ha sempre curata, l'ha sempre seguita, l'ha sempre amata. In periodi in cui poteva essere anche abbastanza facile rifiutare il diverso, anche proprio per obiettive questioni di povertà, di altri 5 figli da mantenere, diciamo di mancanza di denaro, di cibo e tutto, e lei invece l'ha sempre seguita, l'ha sempre amata, l'ha sempre voluta con sé, e infatti è dimostrato che ogni volta che Marie partiva lei soffriva, lei non avrebbe voluto che Marie se ne andasse in giro, insomma, però anche se permetti, nella civiltà contadina questa inclusione del diverso era abbastanza normale, che il diverso, pur essendo diverso, è anche deriso, è anche quello che vuoi tu, però era considerato parte della comunità. Cioè nessuno avrebbe, anche se qui questi amici, questi compagni, questi coetanei di Marie, che poi diventa così a una certa età, da bambina è una bambina normale, poi ha questa malattia in definitiva, anche la fa diventare quello che diventerà. Ecco, ma anche se questi in qualche modo non sono così benigni nei suoi confronti, credo che sia più lei a sentirsi diversa che gli altri, perché nella civiltà contadina sicuramente questa che non esiste più purtroppo, non solo la civiltà contadina, ma neanche questo modo di proporsi, di riapportarsi a dei diversi, se non facciamo delle cose nuove, questo si può anche dire. Ecco, comunque qui sicuramente io ti chiederei a questo punto, oltre di far vedere queste splendide fotografie e anche un po' di commentarle, di leggere qualche cosa, perché è proprio un libro che va assaporato nelle sue... Ecco, io ho due idee, ma non ho nessuna... No, a me è piaciuto tutto, dal primo all'ultimo perché... capitolo, mi piace moltissimo. Come l'ultimo... potete vedere, io ho cercato tra ieri e oggi dei brani da leggere, ecco. No? Come sempre succede, i post-it attaccati sono 47. No, non li ho contati, ma sono tantissimi. Praticamente comprendono tutto il libro. Per cui accetto volentieri, cioè non riesco a scegliere, insomma, ecco. Sì, è difficile, anche perché, anche se tu dici che hai sicuramente cercato, è vero, di non intromettere te stesso nel discorso di questa qui, chi scrive in qualche modo dentro ci si mette, sì, lì per certo, forza, non c'è altro, certo, da, certo. Non c'è altro da fare. Sarebbe disumano. No, appunto, sarebbe troppo diverso. E chi ha provato, diverso. Tipo Verga, ha pure fortunatamente fallito. Ecco, appunto. Ecco, io... Quindi accetto... Comincerei con il primo pezzo, proprio il primissimo, che mi sembra bellissimo, poi io amo anche l'ultimo, ma sono tutti belli, non saprei neanche io. Allora, se tu hai scelto qualcosa, fine, comincia con la fine, è il primo capitolo, comincia con la fine che è il primo capitolo. Sì, perché volevo far capire subito che non era un libro giallo, quindi ho fatto subito vedere come andava a finire. Ecco, perché qui veramente la scrittura è molto importante. Si alza tardi d'inverno il sole, fa fatica a scavalcare le montagne che chiudono la valle in una morsa di freddo e di pace. La stanza è immersa nella penombra e il vapore condensato sui vetri della piccola finestra brilla di mille luci. Brilla come i lustrini del costume di Miriam, la nana ballerina che lei ogni tanto portava in giro sul palmo della sua mano enorme, tanto era piccola. Maridl sorride, le sembra di vederla, la sua amica nana, e la finestra si mette a danzare al suono di quella musica da circo che tanto le piaceva. Sorride Maridl e la chiama con un sussurro, Miriam, Miriam, ed è contenta quando sente una mano fresca accarezzarle la fronte, asciugare il sudore freddo che la fa rabbrividire. La mano è quella di sua madre, piccola e forte nello stesso tempo, una mano rovinata dal lavoro duro del maso, una mano che quasi si vergogna di asciugare le poche lacrime che scorrono sul viso. Poche lacrime, la dura vita della montagna non permette di esprimere apertamente il proprio dolore, che rimane chiuso dentro un prezioso scrigno che solo Dio aprirà quando sarà il momento, e sente che il momento è vicino anche per lei. Sua madre attizza il fuoco della piccola stufa nell'angolo della stanza, un lusso che si concede soltanto agli ammalati, e con un gesto ripetuto infinite volte si pulisce le mani sporche di fuliggine sul grande grembiule, una volta bianco, ora grigio e consumato per i troppi lavaggi. Ma basterebbe il calore emanato dal corpo enorme di Maridl a riscaldare la minuscola stanza, occupata quasi per intero da quel suo letto così straordinario che il viaggio del falegname per consegnarlo tanti anni prima si trasformò in una processione di curiosi, stupiti dalle dimensioni della testata e dalla lunghezza delle assi. Mano a mano che la scarsa luce invernale scaccia il nero della notte, si svelano agli occhi di Maridl gli oggetti familiari che tanto la tranquillizzano, avvolgendola nel vago tepore del consueto. Il baule che l'ha accompagnata in tutti i suoi viaggi per il mondo, rinforzato lungo il bordo da strisce di ottone oramai ricoperte da una patina di nero, ravvivato da etichette sbiadite, pallido segno delle città che l'hanno ospitata. Il piccolo specchio in cui cercava di riflettersi il meno possibile, sospeso sopra il catino di zinco ammaccato. Il crocifisso di legno che la consolava quando la nostalgia di casa diventava insopportabile e che ora è appeso sopra la testata del letto, in un punto che riesce a fatica a vedere, solo torcendo la testa all'indietro. «Chissà i vestiti nel baule in che condizioni saranno», pensa Maridl. «In primavera dovrò tirarli fuori e appenderli all'aria», e forse li proverò di nuovo, così, di nascosto, senza farmi vedere da nessuno. Sì, appena lascerò questo letto, appena sarò guarita. Un'ombra di malinconia le vela per un momento gli occhi, come un battito d'ali di un uccello spaventato che ti fa trasalire quando passeggi sovrappensiero nel bosco. Un grande corvo nero posato sul davanzale della finestra guarda. Il vetro appannato non impedisce al suo sguardo acuto di penetrare nella penombra della stanza. Solo la testa si muove a scatti, seguendo nervosa i movimenti sconosciuti all'interno. La sua immagine si riflette scomposta sulla trasparenza del vetro e non mostra le vecchie penne consumate dalle correnti di milioni di venti feroci. Maridil guarda la sagoma del corvo e alza con fatica la mano come per ringraziarlo di essere venuto a salutarla. Con grande fatica sua madre le sistema il cuscino sotto la testa e le rimbocca le coperte. La vecchiaia appesa su di lei con una cappa di debolezza, mai veramente accettata dopo una vita di fatiche e figli, ma la forza dell'abitudine alla cura le fa ancora trovare le energie per sollevare il corpo immenso e inerte, primo frutto e il più strano del suo ventre. Maridel le sorride, grata. Il suo sguardo si posa nuovamente sul crocifisso appeso, le labbra si schiudono appena per mormorare le preghiere del mattino. Poi le palpebre si abbassano su di un sonno sereno. Grazie. Ecco. Grazie. Ecco qui i due punti che io trovo importantissimi. Tu parli di nostalgia e poi di melanconia e poi ancora con una grande abilità da scrittore, devo dire, questa figura del corvo che guarda dalla finestra, ma che poi si ritrova nei capitoli seguenti ed è anche una figura tipica del paesaggio di montagna, questo corvo che si mette in cima su un albero e fa piegare lievemente la cima dell'albero, sì. con la sua aria così. Ecco, io leggerei una seconda cosa che però lascio a te e poi come ultimo prenderei la fine vera, la fine della terra gelata che mi sembra anche importantissima. Quello che vuoi, non saprei. Quello che voglio, vediamo. Vediamo. Così, quasi a caso, ripeto, un po' di difficoltà a scegliere. Credo. Però adesso leggerei un pezzo del quinto frammento che si intitola I baffi a manubrio. I baffi a manubrio sono quelli dell'impresario che va in cerca di Maril. Che si vede anche qui. Esatto, no? E che prima viene rifiutato, poi viene accettato, così. E non so, anche quello è un personaggio che a me interessava molto, frutto della città, però un poveraccio fondamentalmente che viveva di espedienti, viveva di questa sua scuderia di persone strane, no? E che rappresenta da un certo punto di vista il primo contatto vero di Maridl con il mondo esterno, con il grande mondo, con quello che c'è al di là delle montagne, no? E allora, i baffi a manubrio. Le fa paura quell'uomo con i baffi a manubrio che da qualche giorno sale al maso e si rinchiude con i suoi genitori a parlare nella stube. Le fanno paura quegli occhi appuntiti con cui la scruta, come se esaminasse un vitello da portare al mercato. Ogni tanto le si piazza davanti e le parla da sotto in su. Lei è costretta ad abbassarsi per capire ciò che dice in quello strano tedesco di città che è quasi una lingua straniera per lei, come quella dei bellunesi che d'inverno passano a vendere bottoni e filo. Ed è sempre una festa frugare con gli occhi nella cassettina colorata piena di meraviglie. È piccolo e magro quest'uomo, sempre vestito di tutto punto e con un cappello rotondo che le sembra ridicolo su quella testa, anch'essa rotonda e già senza capelli nonostante sia ancora giovane. Ma Maridl sembra un vecchio, è ancora una bambina e ai bambini gli adulti sembrano sempre più vecchi di quello che sono. L'altro giorno l'uomo le ha offerto una caramella alla menta, sforzandosi di sorridere e di scambiare due parole. E lei ha accettato, ringraziando con un goffo inchino. L'uomo allora, meravigliato, le ha chiesto più volte di ripetere quel movimento, allontanandosi e avvicinandosi per poter meglio valutare lo spettacolo offerto da quella massa di carne che imita le buone maniere delle ragazze ben educate. L'uomo le ha chiesto varie volte se conosce le città dell'impero e le capitali d'Europa, e lei si è sentita molto orgogliosa del fatto di aver sempre dato la risposta giusta alle sue domande di geografia. Certo, sa che l'imperatore abita a Vienna e che la capitale della Francia è Parigi. Sa anche che per andare a Londra bisogna attraversare il mare e che Berlino è la più grande città della Germania. Ma quando l'uomo le ha chiesto se le sarebbe piaciuto visitare tutte quelle grandi città, ha abbassato gli occhi e non ha saputo rispondere, perché mai si era posta una simile domanda. Andare via, da sola, non vedere più sua madre, suo padre, le sue sorelle, gli animali nella stalla. Al solo pensiero le è venuto da piangere, ha salutato in fretta ed è scappata dietro la casa, rifugiandosi nella baracca vicino al letamaio. Ecco, forse avete visto anche qui nelle prime righe di questo capitolo, di questo quinto frammento, di nuovo dei riferimenti molto belli a questa migrazione allora grandissima, o comunque anche adesso, ma allora le invasi erano veramente molto grandi. Queste migrazioni venivano i Bellumati a portare filo e bottoni e a portare con le loro cassette sulla schiena, eccetera. Sono proprio tutti questi, continua, è veramente una ricerca profondissima di quelli che sono gli usi e i costumi del tempo. Sono durati molto a lungo, certo, comunque, certo. Veramente, e questo anche questa meraviglia di guardare in queste cassette meravigliose, con detto bottoni, filo e cose di questo genere, spazzole, cucchiaie, robe così, non è che ci fosse poi il mondo, però senz'altro. E poi questo fatto di vedersi scrutata, e qui c'è di nuovo un paragone animale, come giusto nella civiltà contadina, come un vitello al mercato. Esatto. E questo è anche un'immagine estremamente rara, ecco. Sì. Forse se vuoi ancora leggere la parte della fine e poi chiediamo ai signori se hanno ancora pazienza. Penso di sì, è così bello sentirlo. Ecco, questo è l'ultimo frammento, che si intitola La terra gelata. I due uomini bestemmiano sottovoce. Non sta bene offendere Dio e la Madonna in un cimitero pieno di croci, ma quella buca da scavare nel terreno gelato di dicembre farebbe sacramentare perfino i santi. E che buca poi? Sono dovuti andare dal falegname per misurare la bara, quasi un metro più lunga del normale, 50 centimetri più larga, e hanno dovuto cercare un pezzo di terreno un po' discosto rispetto alle file ordinate di croci di ferro strette l'una all'altra per mantenere nella morte la stessa unione che c'era in vita, se no l'ordine del cimitero ne sarebbe risultato sconvolto. Neanche da morta Marie le riesce a passare inosservata. La stanza dove giace il suo corpo viene visitata da quasi tutti gli abitanti della valle. Perfino i bambini vengono portati perché si ricordino dello spettacolo eccezionale offerto da quel letto enorme occupato per intero dalla sua figura inerte. La morte non ha alterato i tratti del viso di Maril, stessa espressione mite, stessa ombra di sorriso malinconico. Le donne l'hanno lavata e vestita con il costume tirolese che usava quando calcava il palcoscenico, un po' mangiato dalle tarme dopo tanti anni di baule. Ma insomma, è bastato qualche punto dove era più necessario, giusto per non far vedere i buchi più grossi. Ora sono sedute nella stanzetta intorno a Marid per pregare, ma anche per riposarsi dalla fatica di manovrare il suo corpo per lavarla e vestirla. I corpi morti pesano. Lo sanno bene loro che ne hanno lavati e vestiti tanti, di mariti, di padri, di figli. Perfino i corpi dei bambini pesano, quando ormai sono freddi e senza vita. E quello di Marid non fa eccezione. La madre è seduta a capo del letto, composta nel suo dolore, come si usa da queste parti. Prega e intanto pensa se la merenda che ha ordinato nell'osteria in piazza per ringraziare dopo il funerale coloro che sono venuti a dare il loro ultimo saluto alla sua Marid sarà sufficiente per accontentare le malelingue che sembrano divertirsi a criticare tutto e tutti. Si immagina già la sala gremita, il fumo dei piatti di minestra il vino che scorrerà a fiumi, le note assordanti dei musicanti e l'allegria, la confusione, i giochi, l'antico esorcismo che fa trionfare la vita sulla morte almeno per un momento, anche se tutti sanno che non è così. È solo la morte che si prende gioco dei vivi, come un gatto che gioca col topo facendolo scappare per poi riprenderlo, prima di annoiarsi e chiudere in fretta la partita. Il carro, trainato da due cavalli, si ferma davanti alla chiesa. Ci vogliono 6 uomini per scaricare la cassa di pino e portarla davanti all'altare. Il decano, con i paramenti neri del lutto, celebra una lunga messa incomprensibile, ma tutti rispondono a tempo alle frasi in latino che conoscono da sempre. Anche la predica è sempre la stessa. Nostra sorella Maride è andata finalmente in grembo al Signore, dopo un cammino virtuoso in terra, e così via. Ma la madre di Maride pensa che non è giusto, che Dio avrebbe potuto concedere un po' più di vita a questa sua figlia strana, a cui però voleva un bene immenso. Certo, si pentirà di questi pensieri blasfemi e verrà consolata in confessione dal decano, che la assolverà con un segno della croce. Sia fatta la volontà di Dio, ma nel poco tempo che ancora le rimarrà da vivere, in un angolo nascosto della sua anima allignerà sempre un senso di ingiustizia, l'ingiustizia di nascere per poi morire. La bara viene calata con fatica nella buca. I becchini sono discosti, appoggiati alle pale, pronti a ricoprire di terra gelida quel che rimane di Maride. La gente in fila benedice la fossa con un rametto di pino bagnato nell'acqua santa e si segna mormorando una preghiera. Lentamente poi si dirigono da soli o in gruppo verso l'osteria. Le tavole sono già apparecchiate, le caraffe di vino rosso ben in ordine. In cucina bolle il pentolone della minestra d'orzo, arricchita per l'occasione con qualche pezzo di lardo. Dovranno tutti divertirsi, così vuole la tradizione, ma eviteranno il più possibile di guardare verso il tavolo centrale, quello riservato alla famiglia. Seri, composti, i genitori di Maride, seduti accanto ai 5 figli con le mogli, mariti, nipoti, assisteranno all'ultimo spettacolo in onore di Maride. E la madre immagina Maride, la sua cara Maride, finalmente seduta in una platea di nuvole bianche, assistere per la prima volta a una rappresentazione come spettatrice, applaudendo la bravura dei musicanti e l'abilità dei ballerini. Accanto a lei un posto vuoto, in attesa di qualcuno che presto, molto presto, lo occuperà. Grazie. Non so se qualcuno ha qualcosa da chiedere, abbiamo evitato e forse non era giusto, non lo so, la parte dello spettacolo in quanto tale, però leggetelo. Ecco. Prego. Ma è stato, ha mai avuto un uomo, un bambino, così? Allora, bambini no. Allora, in questo libro c'è anche una storia d'amore. E più o meno inventata, mi spiego. A un certo punto, questo è vero, lei ha incontrato un gigante, no? Australiano, in Inghilterra, e si sono incontrati e si sa che anche per un certo periodo, per un anno giù di lì, si sono anche esibiti insieme. Erano diventati anche abbastanza famosi al punto che al Museo delle Cere di Amburgo c'erano 2 statue di cera che rappresentavano loro due. Museo delle Cere che è stato distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale, no? Quindi non esistono più. Certa stampa ha parlato anche di storia d'amore tra i due. Probabilmente era una questione pubblicitaria, diciamo così. Io invece l'ho fatta diventare una storia d'amore, no? Che però non è finita bene, cioè nel senso che questo personaggio, questo Cliff Darrell, era figlio di un grosso proprietario terriero australiano. Quindi era anche una persona benestante, no? Che a un certo punto è stato richiamato in Australia dalla famiglia e lui, mi sono inventato io, avrebbe voluto portarsi dietro Maride, no? Però Marie a un certo punto decide invece di rimanere a casa, perché non riesce a concepire una sua vita dall'altra parte del mondo, lontana dai suoi affetti, così. Però diciamo che questo è frutto abbastanza della mia fantasia. Ecco. Gli avvenimenti comunque sono veri, a un certo punto ci sono degli articoli di giornale che parlano di una dichiarazione pubblica d'amore fatta a teatro, dove questo gigante si inginocchia davanti a lei, no? Probabilmente sono appunto espedienti pubblicitari per far parlare di sé in un momento in cui erano abbastanza famosi, no? Però è vero, è successo così. O anche di un inseguimento in macchina durante una gita dove lui ha inseguito la macchina dove c'era lei per fermarla, così. Anche questo è vero, però vai a sapere se... Io ho preferito farle vivere una storia d'amore, ecco, perché mi era simpatica, quindi... Ecco. Perché no? Perché no? No. Qualche altra? Sì, la cultura, che scuole ha fatto? Sì, ha fatto. Non ho capito, mi scusi. Che scuole ha fatto? Di grado di cultura aveva sta donna. Io credo, esatto. Le scuole elementari, perché su in Varidana in quell'epoca c'erano solo scuole elementari, scuole Volksschule proprio di base, e non risulta a me, insomma, così che, ma mi sembra quasi logico che le abbiano fatto fare ulteriori scuole, perché per fare ulteriori scuole sarebbe dovuta scendere a Vipiteno, probabilmente con dei costi insopportabili per la famiglia, e in ogni caso non si facevano studiare le persone, soprattutto le donne, perché c'è anche questo discorso qua. Quindi, però lei sapeva leggere, scrivere, sono le sue lettere che sono anche piuttosto corrette, come tedesco molto semplice, però corretto, no? Quindi diciamo che un'istruzione elementare sicuramente l'aveva, no? Ed era nata normale, si è sviluppata poi così con la pubertà, o più o meno, almeno tanto a quello che dicono i pochi documenti, insomma le poche ricerche storiche fatte seriamente come queste ricerche storiche, sì, intorno ai 3-4 anni così è iniziato a... Poi probabilmente una volta non si preoccupavano come adesso, se dopo un anno magari non era nella misura prevista. Sì, vero, probabilmente sì. Poi lo dico anche nel libro, ad esempio, però questi erano anche racconti di mia madre. Il medico costava. Dovevi pagarlo. E a volte lo si pagava anche in natura, in queste valli sperdute, poverissime all'epoca, poverissime. Esiste ancora la famiglia di marito? Sì, sì. E la sua tomba si trova? Sì, sì. Sì, sì, sì. E anche il maso c'è? C'è il maso, ci sono parenti, discendenti. No, ancora no. So che prima o poi parlerò con uno di questi discendenti, no. Però devo dire anche che io l'ho fatto anche apposta, anche se può sembrare strano, perché come ho detto all'inizio, questo non è un libro di storia, non è una ricostruzione storica, è un racconto. Per cui a me era anche venuto in mente di andare a cercare e parlare con queste persone, però avevo timore di essere un po' sviato da quello che sentivo io, no? E allora ho preferito non farlo, no? Perché sicuramente se no sarei stato influenzato da... Non volevo correre questo rischio, ecco. Qualcun altro? qualcuno ancora che vuol chiedere? Quello alto laggiù in fondo. Allora, faccio questa domanda perché ho paura di non trovare la risposta nel libro. Allora, siccome si tratta di frammenti, non di una biografia, si tratta di una ricostruzione particolarmente fantasiosa, non di una biografia, però a te che hai fatto anche degli studi biografici personali, che impressione hai avuto dal punto di vista della proprietà della sua vita? Quanto un personaggio come questo si sia impossessato della sua vita? Quanto la sua vita le sia effettivamente appartenuta? Anche perché per assonanza noi ricordiamo l'esperienza di Primo Carnera, sì. Che è stato sfruttato letteralmente. Certo. No? Poi c'è quel famoso, bellissimo film con Humphrey Bogart, dove viene ricostruita anche lì in maniera romanzata l'esperienza di... Ma anche questi personaggi dei quali parlavo io sono storici, no? E anche di quelli... Esatto. Ecco, per esempio, tu dicevi che non c'è più il Museo di Trento, non c'è neanche più i resti di questo popolo di Bezzecca che erano al Museo di Trento, di Rovereto, scusa, perché lui aveva lasciato, come il popolo di Bezzecca, dico, 780, sul principio dell'Ottocento, aveva lasciato il suo corpo come... per poter essere, pensa che avanti nella scienza, per poter essere esaminato dagli scienziati. E c'era un osso, e sono stati distrutti in un bombardamento a Rovereto. Non c'è più neanche quello. Comunque, per rispondere alla tua domanda, ti posso dire che Marie, per quel poco che ho visto io, e anche poi approfondendo altri libri storici, perché poi è stata scritta una biografia storica su Maril, ottima, che ha approfondito e ha studiato i documenti, no? Diciamo che Maril non si è mai posta al problema di appropriarsi della sua vita, nel senso che la sua vita era la sua famiglia, era il suo maso, era la sua valle. Non ha mai avuto velleità di autonomia da questo punto di vista qui, no? Per cui direi che non si pone il problema, no? Non era neanche il ruolo della donna nell'epoca. Anche e soprattutto di una donna di questo tipo qui, una donna coraggiosissima, perché possiamo immaginarsi cosa vuol dire fare quello che ha fatto lei in quel periodo, ma sempre legata a filo doppio alla famiglia, alla valle, alle sue sicurezze. Quelli erano gli unici luoghi in cui lei si sentiva bene, si sentiva sicura, si sentiva protetta e si sentiva accettata. Per cui diciamo, dimmi. In qualche maniera l'ha sfiorata la prima guerra mondiale, la vissuta che c'era l'Europa. Allora, io ho fatto degli accenni, però questi nel libro, però questi sono completamente inventati, no, non esiste documentazione di sorta. Cioè, secondo me il problema non la toccava nel senso di riflessione critica. Io immagino che lei fosse una fedele suddita dell'imperatore, che probabilmente avesse delle notizie degli andamenti della guerra come li avevano tutti, ma senza porsi il problema di guerra giusta, guerra sbagliata, chi ha ragione, chi ha torto, no? Per cui direi che non l'ha sfiorata da quel punto di vista lì, non l'ha sfiorata dal punto di vista di riflessione, così. Avrà subito sicuramente tutti gli effetti negativi della guerra che hanno subito tutti quanti in tempo di guerra. Però non ci sono documentazioni di questo tipo qui, non le ho trovate almeno. Ridarne un po' fuori da questo, sì, momento, da questo fulcro. Quindi probabilmente anche l'economia poverissima della Varidana dell'epoca era talmente povera che probabilmente non ha neanche risentito direttamente, cioè di patate vivevano prima e di patate ha continuato a vivere, non credo proprio che gli si sia abbassato il tenore di vita. Immagino che i pochi alberghi che allora c'erano, parentesi, questo è un altro argomento che spunta fuori nel mio libro di qua e di là, no? Cioè questi inizi del turismo che nella seconda metà dell'Ottocento iniziano a vedersi anche nelle valli sudtirolesi, no? Chiaramente in valli come la Valridana in maniera un po' minore rispetto ad altri posti, rispetto alla nostra Gries o Merano, per non parlare chiaramente. Sì, però con un turismo di elite che cercava, sì, queste particolarità. Infatti, certo, la signora e il signore, doveva lei poi fare la serva, diciamo, la conoscono lì. Ma c'era questo turismo, certo, di elite. Pensiamo solo, visto che ci sono passato ieri dalle parti di Terme di Brennero, così, personaggi di altissimo livello che andavano a passare le ferie lì. No. E tra l'altro non mi ricordo neanche chi è fosse il più famoso, ma ieri proprio non me lo ricordavo, uno scrittore. Ah, scusa. No, io stesso, pretendendo io di andare nella generazione passata stessa ai nonni del Veneto, ad esempio della Campania, che non c'era il problema dell'individualismo, della coscienza, del corpo. E era un senso di comunità, perché faceva parte di tutti di grandi comunità familiari, eccetera. E qui, appunto, come dicevi, anche se lì forse la vita era un po', le comunicazioni un po' più facili, però di fatto non riesco a immaginare che uno facesse, c'era qualche eccezione chiaramente, lei forse, perché, però non era neanche sentita, presumo, come esigenza. E questa forza, ad esempio, della sopportazione anche di quello che capitava, cioè le guerre, cioè come le hanno vissute gente che gli ha dato 4 figli in guerra, per dire, o la morte dei neonati a tantissimi, cioè bisogna entrare in questo quadro di vita contadina, per cui si prendeva per mano quello che la vita ti mandava, insomma, certo, una certa, certo, forma. Come non erano molto critici, presumo, rispetto anche appunto all'imperatore, l'abitudine anche in certo modo di obbedire. Sì. Però l'imperatore l'aveva visto, dunque. Sì. Si era esibita davanti all'imperatore. Sì, per dire, cioè, l'effetto che è chiaro che qualche effetto l'ha avuto nella sua vita personale, certo, e magari ovvio, mica erano scemi che ragionavano sulle cose, però. Misurare con i termini di oggi è un po' diverso. Soprattutto che sono passati 100 anni e ancora non abbiamo capito molto bene le ragioni della prima guerra mondiale, figurarsi se... Proprio nello stile di pensiero di vita, insomma, mi sembra un po'. Certo. Passo lei con quella piccolina? Sì, con la quale era sempre la rosa, sì. Ed era normale? Sì, come tutti gli altri 5 figli. Assolutamente normali, perché questa è una foto di famiglia più che altro, no? Questa foto qua non è una di queste cartoline per gli auguri di Natale, no, questa. Quindi lei è sempre. No, però anche questa secondo me veniva. Però è un personaggio, lei è sempre centrale poi, no? Sì, certo. Qui dovremmo essere, non vorrei sbagliare, perché dovrei andare a controllare, dovremmo essere addirittura su a Monteneve. La miniera in cima, se non sbaglio, però dovrei andare a controllare. Sentiamo le strade. Posto molto bello. Vai a vedere le fotografie. Sì. C'è anche, non c'è in questa serie, c'è anche una foto con il padre. Ma che ha avuto un ruolo secondario? Ma diciamo che come i padri di quell'epoca in quelle famiglie. Il padre badava, era capo famiglia, badava a lavorare, seguiva la famiglia, ma sempre come pater familias, diciamo. Però certo che il momento in cui doveva affidarsi a questi potenti, poi impresa. Sì, infatti nel libro le trattative sono con il padre. No, no, sono con il padre, certamente. La cosa che adesso guardando questa foto tratta era orgoglio negli sguardi delle persone che entrano, cioè non vergogna. No, assolutamente, no, assolutamente. Tutt'altro, no? Sì, è vero. È vero. Sì. Non so, ma infatti era il discorso la era diventata una donna importante attraverso questa cosa, insomma, era il discorso che faceva lei prima, appunto, che questi personaggi non erano esclusi, non erano in queste comunità, no? Ma erano accettati, magari anche un po' temuti, no? Questo secondo me dipende un po', mi sono fatta un'idea, ma questo dipende un po' però dal carattere, dalla testa che aveva lei, perché se no sì, io non è che ne sappia molto, però venivi accettato all'interno della comunità, ma potevi essere anche uno scemo, poi ti voleva bene lo stesso. Sì, beh, no? Ti voleva bene lo stesso comunque. Però lei sembra già più nel modo in cui le stanno intorno, sembra già più una così un cosciente, una personalità, cioè certo, una certo, no? certo. No? Sì, sicuramente. Ecco perché probabilmente è rimasto affascinato. Certo, questa donna. Certo. No, è stata una bella esperienza lavorarci. Ci hanno visto le fotografie, io da qui non so. Sì, le ho fatte un po' girare. Molto vediamo. Bene. Qui è lei con la mamma. Quanto guadagnava a spettacolo? No, c'è qualche documento, però in certi periodi pare che guadagnasse abbastanza bene per quello, soprattutto rispetto agli standard di casa, no? Però... e rispetto probabilmente anche ad altri suoi colleghi di lavoro, sempre fenomeni della natura, appunto, che invece probabilmente erano quasi schiavizzati, detto chiaramente, no? Proprio comprati letteralmente da questi impresari, da famiglie o da orfanotrofi, brefantrofi che se ne volevano liberare. O... Da un certo punto di vista, sì, beh, la sua fortuna grossa naturalmente è sempre quella di aver avuto questa famiglia e questa comunità, diciamo pure, che l'ha sempre seguita, l'ha sempre appoggiata, le ha sempre dato l'affetto che ti fa anche magari affrontare momenti molto brutti, perché non dimentichiamo che anche quando lei era in giro in tournée faceva veramente una vita orrenda, nel senso che era una rinchiusa, una prigioniera, perché ovviamente non poteva andare a passeggio, farsi vedere in giro nelle città dove andava ad esibirsi, sennò la gente non sarebbe più venuta a pagare il biglietto per vederla, quindi faceva una vita da reclusa, letteralmente reclusa. Però la scelta di fare questi spettacoli, perché sembra quasi un contrasto, no? Con la sua personalità che tu dicevi, legata molto alla terra, alla vita contadina, cioè è stata una scelta sua, della famiglia, per motivi economici. Questo uomo dalle baffie a manubrio, diciamo che è stata offerta questa possibilità, che tra parentesi, e questo anche è un segnale del rapporto con la famiglia, la prima volta che l'impresario ha cercato di accaparrarsi Marie, la famiglia ha rifiutato, no? Dopo per necessità, ma qui si torna al mondo contadino. Il mondo contadino ha questa comunità, questa forza di comunità che lo tiene unito e che è anche in grado, ma qui l'antropologa potrebbe spiegarlo molto meglio, è anche in grado di usare i suoi elementi per rafforzare il gruppo. È un po' come l'emigrazione, cioè l'emigrato, cioè la grande famiglia che a un certo punto, purtroppo è quello che sta succedendo anche adesso, decide che uno dei suoi membri prende una nave e va in America, perché a casa non c'è lavoro, si soffre la fame, va in America, questo va in America, trova lavoro, guadagna di più e manda i soldi a casa. E probabilmente all'epoca quello che andava in America aveva il 99% della probabilità che non avrebbe mai rivisto, mai più rivisto casa sua, no? Però faceva sempre parte della comunità. Sì, ma anche semplicemente andare dai contadini vicini a Knesset, sì. Questo era già molto più semplice come discorso, sì, sì, sì, sì. Anche questo, diciamo, sì. Certo. Fa vedere il padre. Non c'è qua, in queste foto non c'è. Qui dentro sì. No. Vediamo se è stata messa. Ci vuoi a casa. Comunque, rispetto a lei, anche il padre è piccolino. C'è questa foto con questa, mi fa una tenerezza. Peccato che non c'è, perché c'è questa foto sempre con Maridl, no? E vicino c'è questa persona in giacca con il cappello, quindi si vede che si è vestito bene per la foto, ma che è sicuramente la prima volta in vita sua che si fa riprendere, che si fa fotografare, perché è barazzatissimo, curvo, ma una tenerezza. No. Signori, avete altre cose da chiedere? Non so, no, i tempi. Non so neanche io. Strucca lì che così vedi che ore sono. 19.09, non so che limiti abbiamo. Grazie infinite, è stato piacevolissimo. Appunto, grazie a lei, no, grazie a tutti voi, visto che non mi avete dato il tempo di ringraziare. Ringraziamo anche Alfabeta che permette queste cose, no?